Italia in controluce. Buongiorno, buon pomeriggio da Daniele Biacchessi e la seconda edizione di Italia in controluce. La gestione dei rifiuti, l'esperienza come presidente della Campania con molto consenso ma anche con tanti errori e ripensamenti. Annalita D'Ambrosio ha intervistato Antonio Bassolino che pubblica il libro Napoli Italia. La storia che si esprime in queste pagine è una storia personale ma è anche una storia collettiva di una città e di tante e tante persone. E quindi mi è sembrato giusto e doveroso farlo verso tante e tanti, se posso dirlo con sincerità, mi è sembrato giusto e doveroso farlo anche verso me stesso in qualche modo, di percorrere questi anni, vedere le luci e le ombre. Dalle prime due elezioni a sindaco, quando Napoli rinasce e Bassolino diventa un po' il protagonista della primavera dei sindaci, alla prima elezione alla regione. E poi l'errore, lei scrive, di essersi nuovamente candidato una seconda volta. L'errore poi culminato nella vicenda tragica dei rifiuti. Quali colpe nella vicenda dei rifiuti ha commesso Bassolino? Ho fatto il commissario dal maggio del 2000, quando divento presidente della regione, fino al febbraio del 2004, quindi 3 anni e mezzo. Durante quei 3 anni e mezzo anche riuscimmo a costruire 7 impianti di combustibile da rifiuti, vincendo tante resistenze. Abbiamo il cantiere di Acerra e però non riuscimmo a completare il termovalorizzatore dentro i tempi giusti, era una drammatica corsa contro il tempo, le discariche chiudevano e i tempi del termovalorizzatore si allungavano. E allora io a un certo punto ho pensato che fosse meglio avere un commissario tecnico, spoliticizzare la questione dei rifiuti, che non erano e non sono né di sinistra né di destra, e invece erano in tanti a manifestare contro il termovalorizzatore, a sinistra e a destra. Io ho pensato allora che potesse essere più giusto con un tecnico andare avanti, invece quello fu un errore, perché io persi ogni potere, perché tutti i poteri erano del commissariato ai rifiuti, che poi dipendeva dal governo nazionale e da Palazzo Chigi. Però poiché ero la persona più nota, più conosciuta e comunque ero presidente della regione, su di me andavano tutte le responsabilità, e per questo io ripenso a quella esperienza come un errore, e penso che assieme poi vi siano stati altri errori fatti dalla coalizione di centrosinistra, che quindi coinvolgono anche me. La verità è che tra il 2006 e il 2008 il quadro politico nazionale dell'Unione è un quadro molto contraddittorio, e quando scoppia la crisi, scoppia alla fine del 2007, agli inizi del 2008, il governo dell'Unione è pieno di troppe contraddizioni al suo interno. Su un grande tema come questo ci vuole più collaborazione da parte di tutti, di maggioranza e di opposizione, di tutte le istituzioni, senza scaricabarile. E io temo che purtroppo i rifiuti torneranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, perché il tema strutturale non è stato risolto ancora, e torneranno perché nell'ultimo decreto legge convertito in legge da parte del Parlamento sono state chiuse, sono state tolte, cancellate 3 discariche che furono messe nel 2008 senza averne indicata nessun'altra. Io le voglio fare una domanda adesso sul PD, sul suo partito. Nel libro traspare questa amarezza anche nei confronti di alcune incomprensioni con il Partito Nazionale. Questo è un momento politico nazionale particolare. Come lo vede Antonio Bassolino, che per molti anni era un punto di riferimento, è stato ministro del governo D'Alema, un punto di riferimento anche della politica nazionale? Come vede l'Italia di oggi? Vedo un paese che attraversa un momento davvero molto duro e difficile. L'attuale segretario del PD, Bersani, vedo che si sta muovendo in modo, io penso, positivo e giusto. Bersani, anche per la sua esperienza, amministrativa, di presidente della Regione Emilia, di ministro dopo, più volte ha come suo punto di partenza l'Italia e i problemi reali dell'economia, degli operai, degli imprenditori, degli artigiani. Io penso che questo debba essere il punto di riferimento di un una grande forza come il PD, una forza, questa è la mia opinione, che avrebbe dovuto nascere già anni prima. Io sono stato tra quelli che più hanno spinto ai tempi dell'Ulivo che si formasse un vero e proprio partito dell'Ulivo. Allora furono tante le resistenze che impedirono questo. Quando siamo riusciti a dar vita al PD erano già passati tanti anni, ci siamo giunti in una situazione più difficile. Qualcuno ha detto che questo è un libro di memorie, ma è un libro di racconti di un passato e un libro per un nuovo inizio? Il libro si chiama Napoli Italia e questo è il mio impegno di tutta una vita. I problemi di Napoli non si risolvono soltanto dentro Napoli, si risolvono agendo dentro la città, ma si risolvono anche con un grande impegno nazionale e del paese. Io intendo continuare a lavorare per rendere forte questo legame. L'ho fatto da sindaco, l'ho fatto da presidente della regione, adesso lo sto facendo e voglio farlo da un punto di vista più politico-culturale. Sono a presiedere una fondazione nella mia regione e città. E a chi ha definito questo libro autoassolutorio? Il presidente Bassolino cosa risponde? È che è pieno di riflessioni critiche. Se invece per autoassolutorio si vuole intendere dimenticare tante cose positive che abbiamo fatto, io su questo non sono d'accordo. Italia in controluce. Questa è una storia particolare, è la storia di Chiara Bisconti, una donna con tre figli, una mamma, che lavora come top manager part-time. L'ha intervistata per Italia in Controluce Roberta Pellegatta. Io rappresento una storia che oggi sono contenta di condividere, perché sono sicura che attraverso la condivisione di storie individuali si capisce che il modello che stiamo affermando è fattibile, merita, come stiamo facendo oggi, riflessione per capire come fa a funzionare. Io sono una top manager di un'azienda di medie dimensioni, sono una mamma di tre figli e lavoro part time, e mi piace dire questa cosa perché quando la dico vedo che le persone incredule dicono ma come? E invece è una cosa molto semplice. Perché in Italia i manager non lavorano part time. Però invece si dimostra che è possibile. E non solo è possibile, innesca un cambiamento culturale profondo che è quello che sta avvenendo nel mondo. Quindi a me piace presentare il nostro caso, il caso di San Pellegrino Nestlé, come un'azienda che si sta chiedendo cos'è che dobbiamo mettere a posto per far sì che noi riusciamo a prendere quello che il mondo ci sta chiedendo di andare a prendere, che è questo enorme cambio culturale che deriva dal fatto che le donne entrano pesantemente nel mondo del lavoro. Ed entrando nel mondo del lavoro stanno cambiando il modo di lavorare in meglio. E quindi sono un'onda da cavalcare per ribadire che questa è una rivoluzione che stiamo portando avanti, che porterà a dei grossi miglioramenti. Ma nel suo caso qual è stata la rivoluzione? La rivoluzione è partire dalle cose semplici, dire non guardate quante ore sto in ufficio, guardate cosa vi posso portare, vi interessa i miei risultati, ve li porto, vi interessa la mia testa o vi interessa che io sia in azienda, vi interessa la mia testa, quindi anche se io sono 5 mesi in maternità non preoccupatevi, il piano strategico di San Pellegrino sulle persone va avanti perché nasce dalla mia testa e dal mio impegno. E gli uomini d'azienda cosa dicono? Attraverso l'esempio concreto e i risultati seguono, perché comunque lei la gira, se alla fine si portano più risultati, anche l'uomo più retrogrado e più difficile da convincere dice di sì. Scusi, quanta fatica bisogna fare? Ma non tantissima. La battuta che faccio sempre, mentre si fa il sugo viene l'idea creativa. L'idea creativa non viene dopo 5 ore di riunione, io non so se lei mi dà ragione, perché dopo 5 ore la gente è estenuata. Appena ci si alza dal tavolo della riunione e si va in bagno, in macchina, da qualche parte a fare il sugo, nasce l'idea creativa. Allora, perché non rendere regola del modo di lavorare il fatto che si mischi il tempo del pensiero al tempo del fare, al tempo di stare in ufficio, senza questa rigidità che è diventata al giorno d'oggi un'estensione smisurata del tempo del lavoro. Quindi posso dirle fatica? Pochissima. Mi spiace di sembrare retorica, pochissima, pochissima. No, meglio per noi. A convincere, ovviamente, adesso io la faccio molto facile perché porto degli esempi successi, in realtà c'è chiusura, c'è paura, però sono tutte le paure, secondo me, di un cambio culturale, sono le ritrosie a lasciare un vecchio modo di lavorare per abbracciarne uno nuovo, ma guardi, secondo me siamo pronti. Per esempio quote rosa, le quote rosa nei CDA? Sono contrarissima, io sono per aggiustare il mondo del lavoro, le modalità di lavoro affinché si riesca a far sì che anche le donne entrino pesantemente, ma tutto quello che allontana dal merito, proprio perché l'ho detto prima, che gli uomini e le persone si convincono in base ai risultati concreti, se c'è qualcosa che va contro il merito è drammatica, io su questo so che non è popolare ma sono contraria. A parte la cultura di cui stiamo parlando, tu stai strumenti ambiente, delle strutture, la priorità a suo parere? Flessibilizzare l'orario, introduzione di orario flessibile part time, telelavoro, lavorare da casa, tutto quello che introduce flessibilizzazione, quindi tutto quello che sgancia dalla rigidità che è tayloristica di 100 anni fa della fabbrica, di stare 8 ore di fila in fabbrica, tutto quello che incide lì secondo me è la strada principale. La seconda edizione di Italia in Controluce, il nostro sito radio24.it dove trovate il blog con le idee di questo programma, Radio 24 Italia in Controluce su Facebook, in Controluce su Twitter, la mail controluce@radio24.it. Torniamo domani alle 6.30 con un lungo reportage sulle mafie in Liguria di Andrea Ferro.